24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani, cioè. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Siamo sempre qui, cari ascoltatori, non ci muoviamo di un passo o di un passero, non ci muoviamo di nulla e il paese è sempre bloccato dal punto di vista della politica a cercare di capire che cosa succederà. Ce la faranno i saggi? Ce la faranno i saggi? Chi lo sa? Chi lo sa? Intanto siamo pronti, c'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Carmelo Lauricella in regia anche oggi. L'Alpino dove è finito? Cos'è? Ah, fa la sera? No, come l'Alpino fa la sera? È proprio, viviamo di ossimori ormai. L'Alpino lavora di sera, me l'hanno spostato, non mi sopportava più. Va bene, allora apriamo il nostro barlamento. Siamo pronti con la nostra serranda che si apre. La nostra Nicole. Bella Nicole Minetti, sempre pronta a offrirci il caffè a tutti quanti. E allora con i Two Fingers possiamo salutare Paola Saluzzi, buongiorno. Buongiorno. Buon mercoledì. Buongiorno, sempre pronti. Sempre pronti, anche senza l'Alpino. Saluto Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Eccoci, buongiorno. Poi Paola, abbiamo anche un altro ospite a sorpresa. Franco Battiato. No, non te lo... Ma la smetti, la... Volevo subito rasserenarti la giornata. Grazie, Alessandro. Ti sei sbollita con Battiato, ti sei chiarita, vi siete chiamati? Assolutamente, devo dire che a sanare tutta la situazione, nel senso a seppellire tutto con una robusta risata, è stato Crocetta quando ha parlato di raggi cosmici di Zichichi. Io rido ancora adesso, sì, perché una motivazione alla Goldrake, sì, come sì, quella non l'avevo mai sentita. Sto cercando il supermondo, io sono qua a cercare il supermondo. Parla solo di raggi cosmici, è stato capace di farci ridere per... grandioso. Nominarlo assessore, magari uno ci pensasse due volte la prossima volta. Comunque voi avete, lo chiedo a tutti da due giorni perché io non mi sono disorientato, tu Luca Dini, hai capito cosa sta succedendo sotto il profilo politico con i saggi, i dieci saggi? No, non ho capito, ma ho nominato una commissione di saggi. A Vanity Fair ci sono i saggi che si sono riuniti e dice: cosa facciamo? Il prossimo numero di Vanity Fair, come la risolviamo? Questa, esatto. La copertina affidata ai saggi, no? Si riuniscono lì, adesso hanno detto siamo come in conclave, bocche cucite, sono saggi e muti. Paola Saluzzi, manco parlano. Tu hai capito qualcosa? Ma uscisse un Papa Francesco, nel senso, allora, esatto. Sicuramente sono persone chiamate a rendere più saggi gli altri, secondo me, più che saggi loro, sono persone chiamate a oleare le rotelle della testa di altri. Ma sono come gli altri? Con Franco Battiato la volta scorsa, meno male che è rientrata, e spero sia rientrata la polemica sulle donne, perché allora non chiamandomi Ugo, non chiamandomi Giancarlo e appartenendo alla categoria femminile, ma certe volte che barba, che noia, abbiamo fatto questo, ma anche sono le donne, vabbè, un attimo di calma, ma stiamo affondando, sta a vedere se... Ma come, non ti scaldi su questa? Comandante Maschio, non ti scaldi su questa cosa, insomma. Non mi è piaciuto, però. Ma che è questa storia? Ma già Napolitano sta facendo i miracoli, ha smesso di camminare sull'acqua perché oramai correva sull'acqua, ora si sta inventando qualcos'altro. E via. Comunque, i saggi. Ieri a un certo punto mi è venuto in mente una cosa, ho detto: ma certo, ho scritto a Miriam Lucchetti, ve lo ricordate? Nick Carter! E lei mi ha risposto e dice: ma chi è Nick Carter? Tu Luca Dini te lo ricordi? Nick Carter, Nick Carter, Paola Saluzzi, Super Gulp, brava! vedi quelli della tua età. Oddio, l'ho detta, no? Incredibile, grazie! Ve la ricordate la canzone? E Nick Carter, chi se lo ricorda? Aveva l'assistente, come si chiamava l'assistente? Ve lo ricordate, quello cinesino? No. Ten, che chiudeva sempre le puntate così. E l'ultimo chiude la porta. Vince il saggio, tutto è bene quel che finisce bene e... E l'ultimo, chiuda la porta. E certo, dice il saggio. Facciamola risentire, eccolo qui. Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene. E l'ultimo, chiuda la porta. Finirà così, Luca. È l'ultimo che dice il saggio, insomma, è l'unica speranza è questa. Vabbè, Nick Carter, il grandissimo. Allora, vi faccio sentire Bersani. Sono pochi secondi perché anche un'altra cosa che non ho capito di Bersani è questa. Ieri è tornato da Nick Carter a Bersani, più o meno fermi allo stesso modo. Senti, io ci sono, l'ho detto, non vado al mare. C'è qualche problema che riguarda me? Ditelo, non l'ho sentito. Luca Dini, Bersani è ricomparso e dice c'è qualche problema che riguarda me? Io non l'ho sentito. Perché? Io sì, però sempre dai saggi di Vanity Fair hanno detto che qualche problema c'è per... pare di sì. No, perché non si è capito bene cosa vuol dire congelato. Cioè, gli italiani si chiedono: ma che sta succedendo? Cioè, dal punto di vista politico, non è una situazione effettivamente un po'. Ma ha ragione Paola. Però la verità è che Napolitano ha cercato di fare il miracolo. Ha preso un po' di tempo e io credo veramente che riuscirà a sbloccare questa situazione. Sì, ma poi come non si sa, cioè, perché anche questi saggi, dopo che c'è stata all'inizio sono stati salutati come una mossa positiva, eccetera. Dopodiché si è subito passati all'attacco frontale da parte un po' di tutti. Lo stesso Napolitano ha detto: ma no, lavoreranno 8-10 giorni al massimo. E non è che dovranno risolvere, non è che dovranno proporre un nuovo governo, ecco, questa è... E quindi a che servono? È questa la questione che su cui si sta interrogando un po' tutta l'Italia. Tu, direttore, l'hai capita? Ma no, servono semplicemente a dire riprovateci, per forza. Io credo sia questo, semplicemente a mettere sostanzialmente spalle al muro i partiti. E a fare assumere loro la responsabilità di dire veramente volete mandare tutto a monte. Eh sì, che un pochino l'hanno già fatto. Detto questo, Paola, tu non so, aiutami a capire tu qualcosa, perché qua non si capisce niente. Lungi dal puntare il dito, perché è facilissimo, o sarebbe facilissimo, lo è a tutti gli effetti, però prendere un po' di queste persone, un po', perché non è un problema di tutti. Mi rendo conto che essere leader politico non sia cosa semplice, e portare queste persone tutte, attenzione, anche chi ragiona con populismi molto, molto, molto facili, trascinarli tutti dentro casa di chi non arriva, ribadisco, non arriva al 27 del mese. Cioè, cercare... Io sono figlia di un militare. C'è stato un tempo in cui i militari e gli ufficiali, in maniera particolare, se ne stavano separati e distinti rispetto al gruppo che poi andava a combattere, arroccati su un punto alto della montagna e guardavano da lì col binocolo la battaglia. Io amo i personaggi alla Garibaldi, cioè quelli che non sono morti per caso, ma sono stati dentro alla battaglia con i loro soldati. Non si può più stare separati e distinti, parlare di politica, nobilissima arte, separata e distinta da un paese che non ce la fa più. Sì, a proposito, ma è chiaro. A proposito di paese che non ce la fa più, questa notizia che trovate un po' su tutti i giornali d'apertura, stanno mettendo a punto il decreto per sbloccare i soldi che spettano alle imprese. Le imprese della pubblica amministrazione. Cosa ti avevano partorito? Poi ieri in serata pare che il ministro Grilli abbia detto: no, questa cosa non ci sarà mai. Come facciamo? Non so, si sono messi lì i saggi evidentemente, non i saggi, 10 saggi, i saggi al governo, ha detto: come facciamo a sbloccare i soldi della pubblica amministrazione per le imprese? Trovato! Potremmo far aumentare l'IRPEF ad alcune regioni. Cioè, il risultato, per sbloccare i soldi alle imprese, aumentiamo le tasse. Ma allora no! Ma allora ditelo! Qualcuno, cioè, praticamente per sbloccare i soldi agli imprenditori, aumentano le tasse ai tutti i cittadini, tra cui anche gli stessi imprenditori che aspettano quei soldi. No, basta! L'abbiamo rispolverato al nostro Carmelo. E no, non si può fare, Luca. Cioè, poi magari questa cosa non verrà fatta, così dice il ministro Grilli, ma i cittadini si sentono un pochino presi per i fondelli, hanno ragione? Sì, sicuramente, però come dice Paola, cioè io preferisco sentir parlare di questo che dice, comunque ci sono delle cose da fare e stiamo qui purtroppo a riempire le pagine dei giornali soltanto di consultazioni e Paola ha perfettamente ragione, bisogna che i leader politici vengano trascinati in casa delle persone che hanno dei problemi, perché qui ogni giorno il fuori più giorno, ogni giorno di ritardo andiamo. Io sono onorata del giudizio del direttore, però direttore non sembra un discorso il mio, no. Con rispetto da Bar Sport, però. Ma no, Paola, l'ha fatto anche Mario Draghi, tu lo sai, quando ha detto a Napolitano che i politici vivono nello state of denial, è vero che io ieri l'ho tradotto. Se ne fottono! Se ne fottono dei problemi reali della gente, questo è. E se non vogliamo dire questo, perché probabilmente invece stanno lavorando per i problemi reali, però facciano un bagno nella realtà. La realtà è un'altra, la realtà è che tu non puoi pagare un debito, scusatemi il paragone molto brutto, vissuto e capito, ecco in questo caso parlo delle donne, è come l'uomo che fa il porco del comodo suo e tradisce, poi torna a casa e picchia la moglie perché la moglie è stata gentile col vicino di casa semplicemente perché gli ha sorriso, perché quella forma di violenza gli permette di ripulirsi quasi la coscienza. Non si può più fare. È così. Infatti adesso tutti se la prendono, dicono ma come Napolitano, i saggi, i politici che dicono ma come i saggi. E giustamente Napolitano potrebbe dire oh, ma voi perché invece di venire a chiedermi saggi, perché non avete fatto un governo? E Luca potrebbe dire ma che volete da me adesso? No? Anche perché bisogna dire la verità, qui purtroppo secondo me la cosa vale per tutti e tre, vale per PD, PDL e 5 Stelle. C'è stato veramente un atteggiamento a Moe Sansone con tutti i filistei. Peccato che i filistei siamo noi, insomma, non va bene. No, quelle smentite, come tu giustamente scrivi su Twitter, insomma, altrove uno dice una cosa e l'altro lo smentisce subito, uno dice una cosa e l'altro lo smentisce. Sì, ma insomma, dobbiamo non i saggi, abbiamo bisogno dello psicologo. Ah, vabbè, ma qual è il caso di Vito Crimi? Ieri Vito Crimi nel Movimento 5 Stelle ha detto mi chiamo Vito Crimi, ma Grillo ha smentito. Però si chiama Vito Crimi comunque. 24 mattino. Per favore, non abbiamo nessuna voglia di andare alle elezioni, basta elezioni. Santo cielo, a un certo punto che la smettano di litigare e che vadano un po' d'accordo, non capiscono cos'è il bene dell'Italia, sono proprio dei disgraziati. Napolitano non ha inventato nulla, ha rimesso il Gran Consiglio. Con il suo segretario sono proprio in 12. È il Gran Consiglio ricostituito. Quest'altra novità del governo tecnico dei 10 che dovrebbero sistemare tutto mi sembra del proseguo di oggi le comiche 3. Manca solo Pozzetto e l'altro attore e possiamo andare avanti. Ho votato Grillo. Ringrazio Grillo perché se non fosse per lui tutto sto casino non ci sarebbe stato e ci saremmo ancora trovati con dei poltronari a spartirsi le torte. Devono andare a casa tutti, tutti! Che bello! Ci avevo 1000 onorevoli, novi, che già sono andati a male. Un preesploratore bollito e congelato, un governo dei tecnici e super tecnici scongelati e adesso pure 10 saggi con la panna. Che tavolata! Presidente, grazie! Non ci stai a far mancare niente! Ma come te vengono? Ci stai a far morire dalle risate! Io non trovo più Radio 24, era questo che le volevo dire. Non lo so, siete spariti. No, siamo qua, signora, siamo qua. Questa signora non trovava più la frequenza, non lo so, si sarà intrufolata a Radio Maria. No, Saluzzi, funziona sempre così, quando uno non trova la frequenza di una radio si intrufola sempre a Radio Maria. Tu sei sul, no, in una galleria dell'autostrada Radio Maria, si sente. Vabbè, no, siamo sempre qui con Paola Saluzzi, con Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Allora, a proposito di Vito Crimi, visto che pare che Vito Crimi tra l'altro sia in crisi, proprio ieri abbia detto, scrive il Fatto Quotidiano, io non ce la faccio più, mi dimetto, ma Grillo l'ha smentito e quindi è stato confermato. Ieri Crozza anche ha parlato di Vito Crimi. Cari italiani, ora chiamo a Draghi e ci dico, caro a Draghi, io nel dubbio mollo. No. Chi ha detto no? Corazziere 1. Come ti permetti? Come ti permetti di interrompere il Presidente della Repubblica? Non lo sai che siamo in streaming? Streams. Come? Siamo in streaming. Stream. Come siamo in? Streaming. È una parola nuova che hai menzionato, Crims. Crims. Chi? Crimsis. Mal dei Crims. Mal Crims. Ma chi è? Crimi? Sì, bravo. Comunque lei non può mollare. Quello adesso. Pupazziello. Sì. Quello che se lo bagni di sera diventa Grillo. No. Mai bagnarlo dopo la mezzanotte. No. Lei comunque porca non può. Ma cosa ti ho detto? Un pupazziello questo, vabbè, insomma, un pupazziello non è male, non l'avevo vista ieri, l'ho sentita adesso per la prima volta, com'è se lo bagni dopo mezz'ora diventa Grillo, dopo mezzanotte diventa Grillo, Vito Crimi, vabbè, allora io devo dire una cosa. Vabbè, qui ho la copertina di Vanity Fair, una personcina simpatica in copertina, una di quelle persone che quando chi le vedi... Chi c'è? Paola, prova a pensare, una di quelle persone che proprio la vedi in esclusiva, Carla Bruni. Oh, dici, oh, finalmente! Oh. No, come oh! Una di quelle persone che proprio ispira... Luca, si può dire mega simpatia, no? Tutti gli italiani appena... Ma è un pregiudizio. È un pregiudizio. Assolutamente. Non ho mai capito perché questa cosa. Ma lei non non fa niente per sembrare, no? È sempre tutta così, no? Sai, le rimproveriamo di essere sostanzialmente bella, fortunata. Secondo me canticchia anche bene, insomma. Carla Bruni. Io dico di sì. Sì. Insomma, ci sono tanti cantanti italiani che cantano decisamente peggio di lei. Ah, dici? Vabbè. Uno, adesso ne dici uno, così vabbè, basta, via, ti sputtani, ti togli. E compone. Dire, a parte tutto, io posso dire questo, che nei rapporti con il giornale è stata... Molto migliore della media dei personaggi, molto più simpatica e molto più disponibile. Ah, vabbè, questo è molto, non... meno. Molto meno pretenziosa. Ecco. Detto questo, si separa? No. No, ma no. No, così, no, chi lo sa? Non ancora. No, non ancora, perché si diceva, ecco, basta, non è più Premier Dam e quindi... Grande direttore! No, non ancora, se non si separa adesso che ha perso il potere, diciamo così, no? Ecco, sentiamola, l'abbiamo messa. Comme freinent les roses, on me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux, pourtant quelqu'un m'a dit... Devo dire che qui non ha una brutta voce, effettivamente. No. C'è Miriam Lucchetti dall'altra parte che fa io un po' sposo Miriam Lucchetti come tesi, ma secondo lei la separazione lei l'ha già fatta in realtà, solo che sono cattivissima, ha messo la letterina di separazione in alto nella libreria e lui non ci arriva. No! Cioè che lui che in realtà non riesce, sai quelle lettere come dei film che uno si sveglia. Ma per piacere, assolutamente donna glamour, ma della serie se lo sguardo racconta le persone, mamma di turchi, vedi ah. c'è questo pregiudizio, Carla Bruni. Ma che pregiudizio, ma come pregiudizio, ma siete troppo buoni voi uomini, siete buoni. No, ma troppo attenzione. Buoni. Comunque vado subito a comprare Vanity immediatamente. Esatto, c'è questa frase tra l'altro cruciale, Nicolà senza la politica, dice Carla Bruni, difficile che le tigri diventino vegetariane. Che vorrà dire? Bello, ho lasciato un po' di polpettone in frigo finché lo scaldi, va bene, dopodiché va a mangiare dall'altra parte. Ecco, più o meno. Questa è la lettura di Paola Saluzzi. Dice anche di peggio, dice ho paura di trovarmelo un giorno, insomma, annoiato casa in casa, in giro per casa, insomma, che non sa che cosa fare. E vedi che si separa, vedi che si separa, e vedi che l'ha detto anche a voi che si separa praticamente. Ma come dice, basta che lei guardi davanti e non lo incrocerà con lo sguardo. Vedi. Direttore, ha messo su una commissione anche lei di 10 saggi. Che li vuole assaggiare tutti alla faccia del marito. Non fatemi andare avanti perché posso anche diventare pesante. Vabbè, c'è uno che ci scrive, tra l'altro, che come ha detto Paola Saluzzi, se ne fottono i politici. No, ho capito. Ma è un copyright di Milan, io sono copiato. Però è un copyright grandioso. Però vogliono sentirlo da te, insomma, e quindi sì, ripeticelo. Se i politici? Diciamo sì. Eccomi dire di Carla Bruni. Vabbè, io come al solito nella mia scelta alternativa leggerò con molta intensità questa storia che mi risulta essere già subito molto molto intensa. Avete intervistato Luca, un transessuale di 16 anni, un ragazzo americano che ha iniziato la procedura a 16 anni, appunto, iniezione di testosterone e doppia mastectomia, cioè è nato bambina, è diventato ragazzo, e c'è soprattutto un dibattito interessante sulla precocità di questi interventi, con molti esperti che sono critici, perché dicono c'è una fase della vita in cui una certa ambiguità anche di appartenenza è normale e spesso è una cosa che si supera, non necessariamente in modo così drastico, quindi bisognerebbe aspettare. Tra l'altro no, la storia è molto lunga, perché di solito insomma le pagine di Vanity Fair sono 2-3 pagine, invece 6-7 pagine molto intense della storia di questa ragazza diventato ragazzo in età molto precoce, effettivamente 16 anni, perché è molto molto molto molto presto. E succede addirittura prima. In ogni caso, tu invece, Paola Saluzzi, proverai a intervistare qualche saggio oggi pomeriggio? Ma tentiamo questa carta, soprattutto avremo ospiti saggi che ci spiegheranno sono in conclave. Più che altro, come dire, vorremmo mandare dei fiori e dei dolci al presidente Napolitano, perché credo che poche persone si siano guadagnate così lo stipendio fino all'ultimo minuto. Eccola lì, la sviolinata per il capo dello Stato. Intanto ci vuole anche tanta pazienza. Se lo Stato... Adesso noi parliamo dei saggi, ma la pazienza di Napolitano è più saggio di uno di 87 anni. Allora, lo Stato non si sa se paga e le imprese non si sa se lo fa prendendo i soldi a noi, ma certamente, come scrive oggi Libero, a fine mese lo Stato pagherà. Gli ex parlamentari, onorevoli di fine mandato, le buone uscite, 250.000 euro a Fini, 217.000 a D'Alema, 215.000 a Livia Turco, 295.000 a Roberto Castelli, 215.000 a Domenico Nania, devo continuare, 175.000 euro a Maroni, che però continua a fare, 58.000 euro a Di Pietro, 44.000 a Veltroni, 70.000 alla Saluzzi, Direttore, mi aiuti. Non hai mai pensato di fare politica, Paola? No. Assolutamente sì. Come sì? Anna? No, dai. Ti hanno offerto una candidatura. Ti ha offerto qualcuno. Ma che condiziona? Tanto si fa politica tutti. Sì, certo. Vedremo. No, come vedremo? Mi lasci così con... la politica o il Festival di Sanremo con un disco con Carla Bruni. Vabbè, mi sta pigliando per il culo. Vabbè, ho capito. Saluto. Il coro di saggi. Ecco, il coro di saggi. Vi lasciamo con Ten. Dice il saggio. Vi saluto. Grazie. Tutto è bene quel che finisce bene. E l'ultimo chiuda la porta. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, le 7:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, alle 7:21 ormai, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo anche gli ospiti che avremo più tardi. Avremo l'editorialista e commentatore Claudio Borghi del giornale, che è anche un docente universitario, così come un altro docente universitario che è diventato celebre negli ultimi tempi, il professor Paolo Becchi, molto vicino al Movimento 5 Stelle, colui che tra l'altro ha suggerito in tempi non sospetti la cosiddetta prorogazio del governo Monti, che di fatto poi si è avverata. Avremo con noi anche un onorevole, Stefano D'Ambruoso, ex magistrato, ora è questore alla Camera, uno dei tre questori, fa parte anche dell'ufficio di presidenza, laddove ieri sono stati fatti dei tagli che vedremo tra poco, ne parlano tutti i giornali, quindi la casta si taglia, la casta si cassa. Andiamo allora a sfogliarli questi quotidiani in edicola. Mercoledì 3 aprile le aperture che troverete sui giornali sono di due tipi, l'attualità politica e quella economica, con soprattutto su tutte la notizia del decreto per sbloccare i soldi alle imprese, con questo giallo sulla possibilità di aumentare le tasse, anche se ieri il ministro Grilli l'ha smentito, lo toglieremo in consiglio oggi, ma finché non vedremo come San Tommaso non ci crederemo. Debiti della pubblica amministrazione, spunta l'addizionale IRPEF, così titola il Sole 24 Ore in prima pagina. Il Corriere della Sera, risparmi e bot per le imprese. La Stampa, arretrati, così lo Stato pagherà. Il Messaggero, crediti alle imprese, rischio IRPEF. Il Fatto Quotidiano, Monti, ultimo regalo, i debiti alle imprese li paghiamo noi. E questa vicenda appunto del possibile aumento IRPEF, il Secolo XIX, soldi alle imprese, rischio tasse. Libero, il costo dei trombati, lo Stato paga i debiti ma solo alla casta. Vedremo tra poco di che si tratta. La politica invece, Repubblica, voto anticipato per il Quirinale. Questa è la notizia che viene messa in primo piano. Il giornale, i saggi e Bersani pensano, gli imprenditori si uccidono, ieri altri due suicidi. L'Unità, Quirinale, l'offerta di Bersani, il manifesto, alla larga intese, mentre Avvenire apre sull'ONU, l'ONU spunta le armi, patto per regolare il commercio di armi, un affare da 100 miliardi di dollari. Allora, intanto i primi tagli, dicevamo, noi ne parleremo con l'onorevole Stefano D'Ambruoso. Ieri la Camera ha annunciato altri tagli. Cari ascoltatori, sono buone notizie, prendiamole per buone notizie, perché il corso, il nuovo corso sembra cominciato e sembra proseguire. Anche ieri l'annuncio di tagli per 8,5 milioni di euro. Una sforbiciata ai privilegi riservati ai 70 parlamentari che ricoprono doppi incarichi, una stretta pure sull'uso dei cellulari. Sto leggendo per esempio dal titolo del Messaggero a pagina 7 l'articolo di Diodato Pirone, che racconta come la Camera dei Deputati abbia deciso un nuovo taglio delle spese. Si tratta di 8,5 milioni su base annua, che dunque dovrebbero far scendere l'anno prossimo il costo a carico del Tesoro da 943 a 935 milioni di euro. Vabbè, bisogna proprio essere ottimisti per vedere questa piccola sforbiciatina che farà scendere, ripeto, da 943 milioni il costo della Camera annuale a 935 milioni. Hanno limato su 943 milioni, su quasi un miliardo di euro, 8 milioni e mezzo. Vabbè, vabbè. Noi vi crediamo, si inizia così, anche perché il presidente, la presidente Laura Boldrini ha detto è solo l'inizio. Bene, sono stati tagliati per esempio, scrive il Messaggero, 5 milioni e mezzo dall'ufficio di presidenza, di cui fa parte anche l'onorevole D'Ambruoso, riguardano le spese dei deputati titolari di incarico di vario tipo, una settantina come ad esempio i presidenti di commissione, cioè sei presidente di commissione, non è che hai un'indennità aggiuntiva. Sei già pagato come parlamentare, almeno togliamo questa, sono state sfrangiate un po' di spese dei cellulari. Ma il vero nodo è sempre quello, i dipendenti della Camera. Noi ne abbiamo chiamato ieri qualcuno, delle nove sigle sindacali sono già in subbuglio, non parlano per il momento. Sono 1541 dipendenti della Camera, come ricorda il Messaggero, hanno una retribuzione media, queste 1541 persone, di 150.000 euro l'anno, lordi. E hanno, sapete quante mensilità hanno i dipendenti della Camera? Quante mensilità? 15. E quando l'ho detto Carmelo Lauricella mi ha guardato a dire: ma come 15? C'è la 13ª, la 14ª e poi? E poi la 15ª, che domande, la 15ª, 15 mensilità. No, chi di voi non ha 15 mensilità? Comunque, la Camera dei Deputati taglia 8,5 milioni di spese l'anno, anche sull'unità trovate questa notizia, pagina 7. Raffica di tagli a Montecitorio, così il quotidiano nazionale. Oh, guardiamo il lato positivo. C'è un altro caso che è nato ieri, non riguarda tagli, ma l'ha portato il deputato del Partito Democratico Ivan Scalfarotto, vicepresidente del partito, omosessuale, che ha detto: voglio che sia estesa l'assicurazione sanitaria anche al mio compagno. Spunta la polizza gay, così titola il quotidiano nazionale. A Montecitorio è spuntata questa richiesta, che per la verità aveva fatto anche la scorsa legislatura Anna Paola Concia, non so poi come sia andata a finire, è finita la legislatura, non è più parlamentare. Ora ci riprova Ivan Scalfarotto, che ha comunicato di voler estendere l'assicurazione sanitaria da parlamentare obbligatoria per legge anche al suo compagno Federico, come previsto dal regolamento della Camera per i conviventi more uxorio. Come si comporterà la Camera? Riconoscerà questa cosa, riconoscendo di fatto un'unione di fatto omosessuale? Punto interessante sul quale poi vedremo come la Camera si comporterà. Dicevamo, tra poco parleremo della questione debiti a pubblica amministrazione, come pagheranno, se pagheranno le imprese, se ci saranno le tasse, eccetera. Sicuramente chi a fine mese avrà i soldi dallo Stato, non ci sono dubbi, come fa notare sia Libero che il Giornale, sono gli ex parlamentari. Arriverà l'assegno di fine mandato, di cui si è tante volte detto e scritto, per i seguenti parlamentari, quelli che non lo sono più: Filippo Berselli, 278.000 euro, leggo da Libero in prima pagina, ne scrive Mario Giordano. Gianfranco Fini, 250.000 euro. Massimo D'Alema, 217.000 euro. Livia Turco, 215.000 euro, anche se i nostri microfoni aveva detto io non so quanto sarò, me lo diranno, lo comunichiamo noi a lei, 215.000 euro. Roberto Castelli, 195.000. Antonio Di Pietro, 58.000, Walter Veltroni, 44.000, Maurizio Paniz, 100.000 euro, Beppe Pisanu, 157.000 euro, Italo Bocchino, 148.000, Gianfranco Miccichè, 158.000, Roberto Maroni, che rimane governatore della Lombardia, ma non essendo più parlamentare, prende un TFR da 175.000 euro, e così via, un po' tutti li trovate. Lo Stato paga puntuale solo i trombati, anche il Giornale, liquidazioni d'oro, vitalizi per 600 ex parlamentari, il Paperone è Fini, 250.000 euro. Beh, il vitalizio è una cosa, questo è proprio il TFR, ha finito il rapporto di fine mandato, o meglio, chiamato la Camera a segno di reinserimento. No, questo lo tengo per la fine. Questo lo tengo per la fine della rassegna stampa, dopo la pubblicità, alla fine, perché l'ex ministro francese, ricordate l'ex ministro francese, quello Causa si chiama, la mia pronuncia è pessima, quello che era il terrore di Depardieu, che ha portato Depardieu a emigrare e chiedere la cittadinanza anche alla Cracosia del film di Spielberg, quello là, l'ex ministro del bilancio, ha ammesso adesso. Da 20 anni ho un conto in Svizzera. No, ma lo tengo per la fine. Cioè, ma uno che fa il puro, uno che dice bisogna colpire chi evade le tasse, uno che è ministro, e poi si scopre da 20 anni ha un conto in Svizzera. Ma uno dice, ma allora, perché non te ne stai zitto? Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, dicevo prima, alle 7:34 minuti, bisogna essere ottimisti. Qualcuno mi ha scritto: ma le agendine in pelle di contribuente le hanno ancora la Camera? Non lo so, però non è male come battuta, neanche in pelle umana, in pelle di contribuente, non lo so. Comunque, il bilancio certo della Camera è 940 milioni di euro l'anno, questo ci costa la Camera. Hanno tagliato per ora, anche ieri, 8,5 milioni. Guardiamo questi granellini di sabbia che sono stati erosi come un qualcosa di positivo, un inizio, intanto un nuovo corso, e poi è chiaro, bisognerà arrivare a tagliare magari di 100-200 milioni questo bilancio, ma comunque, ripeto, sono segnali, non è che con questi 8, 9 o 100 milioni si risolvono i problemi di uno Stato, eh? Ricordiamo sempre questo, che abbiamo 2.000 miliardi di debito pubblico superato. E allora, la politica è incagliata, questo è l'aggettivo da usare, è incagliata anche questa storia dei saggi, non si capisce bene dove vada a parare, sono partiti in pompa magna, si sono riuniti, c'è stato tanto giubilo quando Napolitano, tanti applausi quando Napolitano ha fatto questa scelta, poi nel giro di 24 ore adesso tutti un po' contro i saggi, tutti a chiedersi ma questi saggi cosa devono fare, e che poi sarebbero da chiamare consulenti, ma ormai tutti li chiamano saggi al lavoro per 8-10 giorni, Napolitano ieri ha riferito ancora, non interferiscono col Parlamento, ieri si sono riuniti, oggi pomeriggio racconta Lina Palmerini a pagina 7 del Sole 24 ore, torneranno a vedersi quelli del gruppo di lavoro dell'economia, domani si rivedranno quelle delle riforme istituzionali, l'accordo con Napolitano è di lavorare 8-10 giorni al massimo e tenere il più stretto riserbo sull'esperimento che stanno tentando, addirittura qualcuno di loro racconta Repubblica ha detto siamo come in conclave, abbiamo promesso massimo riservo, che staranno partorendo questi saggi che si riuniscono e che sono oltre che saggi anche muti e non possono dire nulla, e staremo a vedere. Di fatto mi sembra di poter dire col massimo del rispetto che più che saggi sembrano ormai dei precari co-co-pro a progetto, un progetto strettissimo e di strettissima veduta e molto molto stringato, 8-10 giorni, saggi al lavoro per 8-10 giorni, questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 7. Ed eccolo qui anche il retroscena di Alberto D'Argenio su Repubblica, pagina 7, sempre, siamo come in conclave, ma diremo le priorità del paese. C'è un punto però sul quale tutti pensavano, beh, parleranno di legge elettorale, no? Una delle priorità, perché se si dovesse andare a rivotare, non si può mica andare a rivotare con questa porcata di legge elettorale dove si eleggono Camera e Senato con due sistemi elettorali diversi con il risultato che abbiamo sotto gli occhi di tutti, cioè uno vince alla Camera ma non ha la maggioranza al Senato. Beh, uno legge poi il titolo di Repubblica di legge elettorale? No, quella in fondo alla lista, se ne discutiamo subito salta tutto. Ecco, uno con un titolo così non va neanche avanti a leggere nell'articolo. In ogni caso, il tema politico del giorno è quello della scelta del successore di Napolitano al Quirinale. La notizia intanto è data da Repubblica, che è questa. Si vogliono accelerare i tempi. Così titola Repubblica in prima pagina, voto anticipato per il Quirinale. Perché? Perché Goffredo De Marchis racconta nella retroscena che inizia in prima pagina, poi continua l'intera pagina 3 di Repubblica, Pierluigi apre la gara al Colle, Camere riunite il 18 aprile. La strategia nasce dall'attuale inquilino del Colle, Napolitano, le procedure per l'elezione del nuovo presidente partono il 15 aprile, di solito il voto dei grandi elettori subisce qualche slittamento per i ritardi nell'indicazione dei delegati regionali, stavolta non sarà così e quindi prima seduta probabilmente il 18 aprile. Fate con calma sempre, ma questi sono i tempi istituzionali, d'altronde il mandato di Napolitano scade il 15, non è che si può anticipare, o meglio l'anticipazione era una delle carte, ma lo stesso capo dello Stato l'ha esclusa. E quindi il 18 aprile pare che si potrà iniziare a votare. Io tra due giorni vado in ferie, torno il 15 aprile, quindi tornerò dopo 10 giorni, non è cambiato praticamente nulla, vi prometto che non vi porto in dono il nuovo governo e neanche il nuovo Presidente della Repubblica. In ogni caso, il Toto Quirinale fa salire nuovi nomi, registrate cari ascoltatori, Gino Strada. Al che alla risposta Giuliano Ferrara ieri in un tweet ha detto se c'è Gino Strada io mi faccio saltare in aria. L'altra proposta è Riccardo Muti. Oggi Maurizio Belpietro, direttore di Libero, dice mettiamo il maestro Muti. Lui potrebbe essere uno che le ha cantate anche ai grillini dicendo basta questa maleducazione, basta questi insulti, la politica è tutta insulto in Italia. Gino Strada e Riccardo Muti. Questi sono i due nuovi nomi nuovi che spuntano in mezzo al solito giro di nomi: Amato, Prodi, Zagrebelsky, Rodotà, Emma Bonino, Anna Maria Cancellieri, insomma chi più ne ha più ne metta. A proposito del Colle, c'è un'intervista interessante sul Messaggero a pagina 3 a un esponente del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, 34 anni. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle sceglierà i nomi in rete. E dice Di Battista: i nomi del PD non vanno bene al Movimento 5 Stelle, li sceglieremo in rete, io non anticipo nulla, ci sto riflettendo, sicuramente sceglierò una persona capace che conosce bene la nostra Costituzione, una persona esterna ai partiti, ma il nome non lo dico perché non vorrei influenzare qualcuno. Questa comunque è una delle partite che ieri ha messo in campo Pierluigi Bersani. Pierluigi Bersani ieri è riapparso anche alla stampa dopo la pausa di Pasqua passata al suo paese a Bettola. E cosa ha detto Bersani? Beh, dopo il breve ritiro pasquale in quel di Bettola ha detto le cose che dice da tempo. Intanto no al governissimo, ha detto ieri Bersani a pagina 5 il Corriere della Sera, racconta Monica Guerzoni, no al governissimo e sul Colle intesa ampia. L'esordio di Bersani è stato però un possibile anche dietro fronte. C'è qualche problema che riguarda il mio nome? Se c'è, ditelo, perché io non l'ho sentito. Così ha detto Pierluigi Bersani. È tornato. Chi si aspettava un passo indietro pubblico dovrà fare i conti con un segretario che porterà il PD fino al congresso, con un presidente incaricato che non ritiene esaurito il suo mandato esplorativo. Dunque un Bersani che dice sono perfettamente in campo, però dice intanto si dice pronto a incontrare Berlusconi. Sul tema del Quirinale vediamo, discutiamo. Sul tema del governo però ha fatto capire insomma di essere ancora in campo. Non mi si raffiguri come il Bersani ostinato, non ho nemmeno messo il nome sul simbolo. No, io ho in testa quella che credo essere una soluzione per il nostro paese. Non vado al mare, io ci sono, non intendo però essere un ostacolo, ma ci sono. Insomma Bersani che dice se c'è un problema su di me ditemelo, però io sono qui. Sono ancora di fatto in questa ironia che si è anche diffusa sulla rete, il premier congelato, no? Il mandato Findus congelato. Sta di fatto che Bersani rinnova l'invito a dire io sono qui. Interessante però anche il retroscena sempre sul Corriere della Sera pagina 6 che riguarda i cosiddetti renziani. Maria Teresa Meli racconta di come i renziani spingano per le urne. In questo retroscena c'è anche scritto che il sindaco di Firenze Matteo Renzi ai suoi in gran segreto ha confidato che per lui prima si vota e meglio è, a ottobre o perfino a giugno. Ed è interessante tra l'altro capire come si comporteranno la pattuglia di circa 50 deputati renziani. Uno di questi è l'onorevole Matteo Richetti, che è intervistato oggi da Repubblica, pagina 2, da Giovanna Casadio, dice basta, cambiamo rotta. Bersani ritiene ancora di essere in campo oppure no? Chiede Matteo Richetti nel transatlantico di Montecitorio. È evidente che spetta a lui decidere se rimanere in gioco o meno, però dal momento che un governo non è riuscito a farlo, dice Richetti, ipotizzare che si trovi ora una maggioranza su un governo Bersani sembra difficile. Se ci fosse stata avrebbe avuto un incarico pieno. Questo è l'inizio del discorso di Richetti per iniziare a dire, cominciare a far profilare l'idea, cambiamo rotta. Anche per il secolo XIX la versione bersaniana è messa così, pronto al passo indietro ma no al governissimo. E dall'altra parte Berlusconi che vuole fare? Beh, Berlusconi ieri veniva dato per certo sabotatore dell'esperimento dei saggi. Ora in qualche modo ha un timore. Il timore di Berlusconi, scrive il Corriere della Sera con Paola Di Caro, è quello che si chiudano così le finestre per il voto, cioè che ci sia una sorta di perdita di tempo, o come l'ha chiamata Brunetta, una prendita di tempo da parte di Napolitano con questa scelta dei saggi che traghetta fino al nuovo capo dello Stato, poi l'elezione del Quirinale, poi la formazione del governo. Se non si riuscisse a trovare un accordo, comunque questo farebbe saltare la possibilità di andare a votare a giugno, che è una delle possibilità che, come racconta anche La Stampa con Ugo Magri a pagina 5, è in campo per il Popolo della Libertà. Alfano ancora dice alle urne subito, il voto in estate ormai però è improbabile, lo ostacolano le elezioni del capo dello Stato, lo ostacolano anche dei precedenti, come si ricorda nel 1983 in questo articolo della Stampa. Sta di fatto che questa sarebbe una delle idee di Berlusconi, andare a votare al più presto. Il Movimento 5 Stelle invece è un po' in subbuglio perché racconta il Fatto Quotidiano, c'è Vito Crimi, l'uomo che appena parla viene smentito da Beppe Grillo, che racconta Paola Zanca sul Fatto Quotidiano, anche ieri avrebbe detto così: non ce la faccio più, se è così mi dimetto. Chiuso nella stanza al quarto piano del Senato, Vito Crimi è davanti a sé il plotone dei comunicatori del Movimento 5 Stelle. Claudio Messora non capisce come sia venuto in mente al capogruppo di scrivere quel post su Facebook, un post nel quale Crimi in pratica ha detto: Bersani meglio di Monti, a questo punto meglio il PD di Monti. Una quasi bestemmia, tanto che subito Beppe Grillo ha dovuto quasi, scrive il Fatto, scomunicare Vito Crimi dicendo che Bersani non è meglio di Monti, è semplicemente uguale a Monti. Crimi è costretto a prendersi una lavata di testa, sanno che non era quello che il capogruppo voleva dire, comprendono che sia stato frainteso, ma non possono non dirgli che stavolta ha sbagliato. Quello che hai scritto su Facebook è gravissimo, è contrario a tutto quello che abbiamo detto finora. Come ti è venuto in mente? Inizia così, racconta il Fatto Quotidiano, la pagina 3, il processo al capogruppo al Senato Vito Crimi, che nel massimo dello sforzo dice: io così mi dimetto, non ce la faccio più. Poi tutto ufficialmente rientra, ma certo la tensione nel movimento c'è. Eccoci qua, allora. Il tema del giorno dal punto di vista economico è questo: arriva il decreto per pagare e sbloccare i soldi della pubblica amministrazione, che la pubblica amministrazione deve alle imprese. Bella notizia, direte voi. Finalmente forse ce la fanno. Ieri c'è stato anche l'accordo politico, anche il Movimento 5 Stelle ha detto sì. Il Movimento 5 Stelle, che aveva avuto qualche perplessità nei giorni scorsi, invece c'è stato il primo sì all'unanimità, come racconta il Sole 24 Ore, pagina 2. Ora però c'è un giallo, cioè pensate come l'aveva partorita, almeno in una prima bozza, qualcuno. L'avevano partorita così: trovato, ecco il modo per pagare i soldi della pubblica amministrazione alle imprese. Diamo la possibilità alle regioni, ad alcune regioni, di aumentare l'IRPEF. Cioè, praticamente, per dare i soldi alle imprese, aumentiamo le tasse ai cittadini. Tra cui, tra questi cittadini, ci saranno anche alcuni imprenditori di quelle imprese che aspettano i soldi dallo Stato. Ma ora, dico, ieri il ministro all'economia Grilli ha detto no, questa ipotesi che era in una prima bozza è esclusa. Staremo a vedere oggi in Consiglio dei Ministri, perché se fosse davvero così, ma cosa deve pensare la gente dell'Italia? È uno straordinario paese, ma sembra essere in un Luna Park dell'orrore. Ma com'è possibile pensare finalmente, dopo tanti anni, di sbloccare i soldi da dare, che lo Stato deve dare alle imprese, mettendo tasse ai cittadini? E sta di fatto che questo rischio è ancora in vigore. Leggete il Sole 24 Ore, pagina 3: rischio aumento tasse e tagli di spesa. Nella bozza c'è l'aumento dell'IRPEF regionale, ma l'economia, cioè il ministero, frena. Carmine Fotina racconta: arriva oggi il decreto legge per sbloccare 40 miliardi su totale di 91, quindi siamo a meno della metà, dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese. Nella bozza che sarà presentata oggi in Consiglio dei Ministri, che era in programma alle 10 ma è slittato alle 19 per consentire un confronto sulle ultime verifiche, spunta la possibilità per le regioni che utilizzeranno l'anticipo di cassa di effettuare nel 2013 l'aumento dell'aliquota addizionale IRPEF, che sarebbe dovuto scattare nel 2015. Ma in serata è arrivata la frenata del ministro dell'economia Grilli. La norma è destinata a uscire vuol dire che non è ancora uscita, ma oggi il decreto verrà approvato. Tra l'altro ne parlerà Simone Spezia, ci sarà anche il sottosegretario all'economia Polillo, staremo a vedere questo alle 9 se davvero hanno partorito questa geniale idea. Trovato come pagare i soldi ai cittadini, mettiamo più tasse ai cittadini. E in pratica questa è la soluzione che qualche mente eccelsa aveva elaborato. Veniamo alla questione francese che avevo anticipato prima. Facciamo un salto oltre Alpe, perché non è che tutti i problemi sono qua. Allora, vi ricordate, c'era un ministro del bilancio, Jérôme Cossack, chirurgo plastico, 60 anni, che il presidente Hollande ha messo lì per dire saremo la Francia rigorosa, che non sbaglierà, che dal punto di vista anche della lotta all'evasione fiscale sarà dura e pura. E allora questo ministro Cossack ha subito individuato quelli che erano i ricchi, no? Tassa del 75% sui super ricchi, che tra l'altro c'è ancora, ci riprovano, c'è Ibrahimovic già che al Paris Saint Germain cerca subito un'altra squadra per non pagare questa tassa del 75%. Allora questo ministro, c'è stata la battaglia con Depardieu, Depardieu che ha scritto vi butto via il mio passaporto, è andato a cercare cittadinanza in mezzo mondo, io ho detto prima anche in Cracovia, no? Quella del film The Terminal. Ebbene, questo ministro a un certo punto si è dimesso perché era stato accusato di avere un conto in Svizzera. Ma come? Lui che ha fatto la battaglia? No, nego, ha sempre negato, ieri ha ammesso. Da 20 anni ho un conto in Svizzera. Scusate, vi ho mentito. Ho un conto in Svizzera. Alberto Mattioli, pagina 14 della Stampa, aveva negato sui giornali, negato coi giudici, negato in Parlamento, negato coi suoi collaboratori, negato col Premier, negato coi suoi colleghi ministri, negato guardandolo dritto negli occhi col presidente François Hollande. Ieri Jérôme Cossack, il ministro socialista del bilancio, ha ammesso: da una 20 anni ho un conto in Svizzera. Cossack è crollato su internet, pubblicando sul suo blog un messaggio che non ha eguali nella storia della Quinta Repubblica e della Francia. Ha scritto di aver incontrato i due giudici che indagano su di lui e ha confessato, annunciato che 600.000 euro imboscati a Ginevra saranno rimpatriati e si è scusato in termini inauditi al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro, ai miei ex colleghi del governo chiedo perdono del danno causato, ai miei colleghi parlamentari, ai miei elettori, alle francesi e ai francesi esprimo il mio sincero e più profondo pentimento. Penso anche ai miei collaboratori, ai miei amici e alla famiglia che ho tanto deluso. Sono stato preso da una spirale di menzogna e mi ci sono smarrito. Sono devastato dai rimorsi. Beh, una davvero... Cioè, immaginate scrivere questo messaggio, anche il manifesto dedica una pagina a questo tema, frode bollente per Hollande, l'ex ministro del bilancio, si era dimesso negando le accuse, ma ieri la confessione, sono distrutto dai rimorsi, lo sfogo sul suo blog, il castello di menzogne investe il governo. Ricordate la massima sempre di quello là, a fare i puri c'è sempre uno più puro che ti è pura. E così crollò anche l'ex ministro francese Cossack. Notizia di cronaca per concludere, che trovate su tutti i giornali, riguarda milioni di italiani che si sono dedicati alla sono passati alla sigaretta elettronica. Ora è vietata anche la sigaretta elettronica ai diciottenni, cioè ai minorenni. Il ministro della salute già c'era il divieto dai 16 anni, è alzato da 16 a 18 anni il limite per la vendita di vaporizzatori alla nicotina. C'è una multa di 2.000 euro per i trasgressori. Su questo c'è un tema, c'è un articolo un po' ovunque. Sigarette elettroniche proibite ai minorenni per Libero. La sigaretta elettronica equiparata al tabacco, non potranno comprarla i minori di 18 anni. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che dedica una pagina a questo. Lo trovate a pagina 21 del Corriere. Applicato il principio di precauzione, dice il ministro Balduzzi, così anche per Repubblica in prima pagina: sigarette elettroniche vietate ai minori sono pericolose soprattutto per i giovani. E dunque questa decisione del ministro della salute. Porca miseria, dimenticato la Gazzetta di là. No, ma non è uno scherzo, eh? Oggi l'avrei letto volentieri il titolo della Gazzetta, ma non so, c'era una cosa sulla Juventus, ma vabbè, comunque insomma il risultato della partita lo sapete, 2-0. Però siccome siamo una redazione fatta a vetri, ecco, io vedo, ecco, è arrivata Miriam di corsa, guardate, sentite anche la corsa di Miriam, okay. Ma ha portato la Gazzetta giù. Ah, eccolo qua, Stra Bayern, Juve sveglia, questo era il titolo della Gazzetta dello Sport. Beh, valeva la pena questa corsa per questo titolo di prima pagina. 24 mattino. La politica nel tunnel. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sono le 8 e 16 minuti. Allora, se volete intervenire per i vostri messaggi 349-238-6666, poi per le telefonate 800-24-0024. Una cosa l'ho capita anch'io, insomma, che questi 10 saggi che sono stati salutati con giubilo, qualcuno con entusiasmo, bella idea, giusta idea, bravo presidente, poi insomma passati due giorni, passate le feste, i politici hanno iniziato a chiedersi: ma questi saggi cosa devono fare? Ora questi 10, che oltre che saggi sono anche muti, sono riuniti in conclave, qualcuno di loro ha detto: dobbiamo parlare con massimo riserbo delle proposte che faremo. Mi sembra che si è capito che si siano trasformati più che in 10 saggi in 10 contratti a tempo determinatissimo, co-co-pro, 10 giorni, e non serviranno a formulare soluzioni che siano salvifiche per il paese. Ieri Crozza, che fa Napolitano da Ballarò, sentitelo. Ci stanno i saggi, sì? E io sto tranquillo. Quando ci sono i saggi io sto tranquillo. Napolitano, ci dica qualcosa sul paese. Shhh, parlano i saggi. Napolitano, com'è l'evoluzione? Non vedo, sono i saggi. Napolitano, e non mi scassate. Abbassiamo i toni. Abbassiamo i toni. Cari italiane, cari italiani, se non si fosse capito, io sto prendendo tempo perché obiettivamente, con viva e vibrante soddisfazione, diciamocelo, io non so che cazzo fare. Vabbè, questo è Maurizio Crozza. Allora, ne vogliamo parlare con due docenti che sono anche due commentatori. Saluto Claudio Borghi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Claudio Borghi insegna alla Cattolica ed è anche un editorialista del giornale. Saluto il professor Paolo Becchi, buongiorno professor Becchi. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, il professor Becchi insegna filosofia del diritto all'Università di Genova, ma di recente è diventato anche il cosiddetto teorico della prorogatio. Lei da un po' di tempo lo diceva, no? Teniamoci monti. E come la prendevano? Lei si è sfogato, ha detto: mi davano dell'ubriaco, mi davano del cialtrone, mi davano questi costituzionalisti da strapazzo. Che adesso deve venire lei, che insegna filosofia del diritto, a insegnare la Costituzione a tutti? Ma lasciamo perdere, mi sono stufato ora di sentirmi dire che ho ragione. Parliamo della situazione attuale, lasciamo perdere, perché è veramente stato ridicolo quest'ultimo. Lei l'ha capito, andate, l'ha capito che fanno i saggi. Andatevi a vedere su YouTube, mio figlio ha messo il video della Bindi a servizio pubblico, dove dice: ma professore, ma se ne rende conto? Ma se ne rende conto di quello che dice? Adesso lei non parla più. La Bindi, vabbè, si è preso questa soddisfazione su Rosi Bindi. Senta, sì. Lei l'ha capito questi 10 saggi a che servono? Ma direi che io non posso utilizzare i termini di Crozza, ma sono quelli. Cioè, il Presidente della Repubblica cosa doveva fare? Doveva impallinare subito qualchedun altro dopo Bersani. Bersani ha dato una via d'uscita, invece di fare subito un'eutanasia attiva ha fatto un'eutanasia passiva, ormai questa viene accettata anche dai cattolici, va bene così, e a quel punto impallinare qualchedun altro era troppo rischioso, poteva dimettersi, ma Draghi gliel'ha impedito, e a quel punto l'unica soluzione che poteva trovare è escogitare per l'appunto un periodo di decantazione. E così si è trovato l'escamotage dei 10 saggi che ci conducono alla rielezione. La decantazione. Questo è un termine, loro hanno parlato. No, perché poi diranno: Becchi di nuovo l'ha tirato fuori uno. Ecco, questa è decantazione, il mio termine. Loro hanno parlato di congelamento. Guarda che lei dice Bersani, ma stia tranquillo che Bersani ha detto anche ieri che è perfettamente in campo. Quindi non... Ma certamente, sì, ma non... il problema è che lui è in campo, ma non c'ha più lo squadrone dietro. Cioè, il PD è allo totale sbando. Io penso che ci sarà prima o poi una resa dei conti, insomma. È chiaro che ormai queste anime diverse che convivono nel PD, la vecchia tradizione del PC, i democristiani, queste nuove correnti alla Renzi, insomma, ormai non si... Vede, questi problemi il PDL non ce l'ha, c'è un leader, finché quel leader vive, il partito c'è, dall'altra parte c'è veramente una perché grande... lunga vita a Bersani. No, ma tra l'altro lei dice decantazione, poi il professor Becchi è anche considerato in qualche modo il teorico, comunque un professore molto vicino al Movimento 5 Stelle, tra poco magari ci dirà qualcosa riguardo a questo. Vorrei però al professor Borghi capire come si intreccia tutto questo anche con la questione economica. Allora, sono tre le domande che le vorrei fare. La prima è: per cosa ne pensa anche lei di questi 10 saggi? La seconda è: perché secondo lei Berlusconi nel giro di 24 ore è passato da una sostanziale soddisfazione a un ci stanno fregando, ci stanno fottendo e quindi bisogna subito far saltare questa cosa? E la terza cosa: come si intreccia con l'economia? Oggi c'è un provvedimento di cui parlerà poi più approfonditamente alle 9 Simone Spezia, che mette a confronto il dramma dello stallo della politica con invece i problemi seri e veri dell'economia reale, quello dei pagamenti per le imprese. Borghi. Ma cerco di essere sintetico. Allora, dei saggi penso tutto il male possibile, perché se ovviamente il professor Becchi aveva di fatto ragione, perché lui poneva l'accento sul fatto che il Parlamento potesse lavorare in autonomia, staccandolo dalla vicenda governativa, però il fatto che il Parlamento possa lavorare in autonomia significa che inventarsi delle figure, delle cotte, io non lo so con che leggerezza uno possa nominare i saggi. Io ho provato a guardare tutta la Costituzione e la parola saggio non c'è mai scritta. A parte che lui però ha detto non l'ho mai usata, è stata una scelta giornalistica questa. Lui li ha chiamati consulenti, questo diceva lui. Napolitano dice: io la parola saggi non l'ho mai pronunciata. Ma anche se l'avesse chiamati Filippo, non esiste una procedura del genere. Io mi stupisco veramente come ci sia la gente che è pronta a fare i girotondi per qualsiasi scemenza, no? Non si tocca la Costituzione, cose di questo tipo, e poi dopo la gente vota e dopo aver votato, tra parentesi, venendo da un governo nominato, quindi assolutamente non votato dalla gente come quello Monti, gli vengono propinati dopo i tecnici e i super tecnici, ricordiamo che i tecnici ne avevano chiamati degli altri, i saggi. Sì, però tutto che bene, con della gente non eletta, perché ce ne sono 5 su 10 che non vengono. Sì, però professor Borghi, non crede che c'è un ribaltamento? Perché Napolitano non lo dirà mai, ma in maniera poco istituzionale potrebbe dire: oh, ma che volete da me? Vi siete messi una settimana a parlare, non avete partorito uno straccio di governo, uno straccio di maggioranza, ma adesso mi rompete le scatole perché io trovo una soluzione, e a questo punto trovo una soluzione qualche modo, la decantazione, come dice il professor Becchi. Ma il professor Becchi mi correggerà comunque nel caso, perché ripeto, io non sono un costituzionalista, sono un economista. Neanche lui. Però ci ha azzeccato. Comunque almeno nell'ambito legislativo, mi correggerà, però il Presidente della Repubblica deve e può dare un incarico. A un certo punto, anche dal punto di vista della teoria dei giochi, la situazione è semplicissima. Abbiamo un partito che dice che non fa d'accordi con nessuno, che è il Movimento 5 Stelle, no? Legittimissimamente. Abbiamo un partito che dice che gli va bene tutto, che è il PDL. E a questo punto, una volta che abbiamo un partito che gli va bene tutto e un partito dice che non gli va bene niente, al terzo partito, che è il PD, va posta pubblicamente la seguente domanda, vale a dire: vi va bene di fare l'accordo con quel partito a cui va bene tutto? E il PD ha risposto di no in maniera chiara. No, ma ho capito, però attenzione, ha risposto di no Bersani, che in questo momento è poco lucido, perché ha un conflitto di interesse personale e rischia di viverla dal punto di vista personale questa faccenda per la sua sconfitta privata, diciamo così. Non sappiamo bene quale sia il punto di vista del partito. Allora, a quel punto lì, dato che in ogni caso il Presidente della Repubblica deve avere la fiducia dei parlamentari, no, deve fare una richiesta pubblica dicendo: vi può andare bene per la situazione che contingente, a risposta secca gli dicono sì o no. Se la risposta è no, a quel punto il Presidente della Repubblica si dimette, perché non può sciogliere le Camere, perché c'è il semestre bianco, sì. Si nomina il nuovo Presidente della Repubblica, quale che sia, dopodiché istantaneamente il momento dopo si va alle elezioni. Però prima di venire alla questione economica, professor Becchi, lei che ne pensa di questa ricostruzione che ha fatto Borghi? Cioè, qui la questione è anche il Movimento 5 Stelle, lei non imputa qualche senso di responsabilità, come dice qualcuno, al fatto che il Movimento 5 Stelle ha sempre voluto dire no a tutti? Vorrei dire una cosa, perché il problema che ha sollevato il professor Borghi merita una risposta anche per coloro che ci ascoltano. E io ripeto, come ho già detto diverse volte, io non sono un costituzionalista, sono un filosofo del diritto, però effettivamente lavoro ormai da molti anni in facoltà di legge, non sono più le facoltà in Italia, ma insomma nell'ambito della giurisprudenza, e quindi insomma sono cose che conosco, ecco. Però voglio dire, e ho studiato proprio anche in occasione di quello che sta succedendo, è vero quanto dice il professor Borghi, che qualcosa del genere noi non l'abbiamo mai avuto, cioè un periodo di crisi di governo di questo tipo, di una gestione tipo quella che sta facendo ora Napolitano. Però bisogna dire questo: la Costituzione non è che regoli così dettagliatamente tutti questi procedimenti, e c'è, per quanto riguarda le consultazioni del Presidente della Repubblica, un largo margine di discrezionalità. Bisogna quindi riconoscere che lui semplicemente, in una situazione di impasse come quella che si è venuta a creare, ha preso del tempo, e d'altra parte c'è da tenere presente questo, che il tempo è un tempo limitato, perché noi sappiamo che tra una diecina di giorni scade. Quindi vede che lui ha anche detto: ma io dei consulenti me ne servirò per 10 giorni. È chiaro che è soltanto un tentativo per giungere alla fine del mandato e alla relazione del Presidente. Senta, ma lei invece la prorogazio di Monti come gli è venuto in mente a lei, che poi è successo? Ma guardi, io ripeto, lasciamola perdere, perché sennò c'è gente che dice: ma no, non è prorogazio. Vabbè, semplicemente insomma, quel periodo di tempo che va dal quando c'è un governo dimissionario e che viene poi sostituito dal nuovo governo, poiché il nostro ordinamento giuridico non consente, e per fortuna, grazie a Dio, un periodo di vuoto politico, quando non c'è un governo in carica con la maggioranza parlamentare, eccetera, rimane quello lì, rimane il governo dimissionario. Quindi noi, in realtà, perché alcuni dicono: ma il professore non ha ragione, oggi è uscito sull'Espresso, gli daremo ragione se durerà ancora 1 o 2 mesi. Ma guardate che la prorogatio, ho già ragione, perché ce l'abbiamo da quando si è dimesso, quando ci sono state le dimissioni di Monti, quindi era prima di Natale. Non è che la prorogatio è cominciata da quando l'ha deciso il Presidente della Repubblica. Ma lei è vero, che un po' tempo fa aveva detto: io a Monti sputerei? No, guardi, mi dà l'occasione di precisare questa cosa. E io, in un programma di intrattenimento serale, alla Zanzara, alla Zanzara, dai nostri ironico, la Zanzara, intervistato dopo la manifestazione di studenti in cui c'era scritto in un cartello: sputiamo su Hegel. Su Hegel, il filosofo tedesco, no? Io mi sono permesso di dire: ma scusate, ma questi ragazzi, ma io, se fossi andato in piazza, non avrei sputato su Hegel ma su Monti. Ma che c'entra Monti, però, scusi, da Hegel a Monti il passaggio. Ma scusi, era una manifestazione contro il governo, era una manifestazione di studenti contro il governo Monti, e io a quel punto ho detto: ma scusate, cosa c'entra sputiamo su Hegel, che era un vecchio slogan del 68, certo, di una femminista. Ah, se ce l'avete col governo, sputate su Monti. E ce l'avete con Monti, ma era una battuta così ironica. È chiaro. No, contesto. No, l'ha precisata così. Io sono stato un critico radicale, questo è verissimo, al di là di questa espressione infelice, se vogliamo, insomma, che un professore non si dovrebbe permettere, anche in uno scherzo. No, ma sa, quel programma è fatto un po' così, un pochino li conosciamo, quelli della Zanzara. Esatto, no, però stia lì un attimo, professore, perché devo dare 3 minuti di pubblicità. Ripartiamo da qui, allora, anche con i nostri ascoltatori, 800 24 00 24. Capite cosa sta succedendo in questo marasma della politica? Intanto hanno fatto e stanno facendo, vogliono fare finalmente il decreto per sbloccare i soldi alle imprese, ma forse anche mettendoci più tasse, questo è un giallo che c'è. Tra poco ci raggiungerà anche un onorevole Stefano D'Ambruoso, che fa parte è uno dei tre questori della Camera, dell'ufficio di presidenza, laddove anche lì spaccatura tra il mondo reale e il mondo della politica, qualcosa si muove, eppur si muove, si potrebbe dire, nel quello che sono i tagli alla politica, ma in realtà forse c'è ancora qualcosa da fare su alcuni ambiti. 24 allora mattino. eccoci qua, alle 8:35 minuti, siamo con Claudio Borghi e Paolo Becchi. Ci sono anche gli ascoltatori, 800 24 00 24. Giusi da Catania, buongiorno. Buongiorno Giusi, buongiorno, che dice? Io volevo solamente fare un'osservazione a proposito del discorso che faceva il professor Borghi, sì, l'economista, il quale si soffermava sul fatto che questi cosiddetti saggi, così come, sì, i componenti del governo tecnico di Monti fossero persone nominate e non elette. Sì. Benissimo, però in fondo i deputati che abbiamo adesso e quelli che abbiamo avuto la scorsa legislatura, cosa sono? Sono nominati, sono anche nominati loro, ma non eletti. E con questa legge elettorale, se noi... sì. Prego? Sì, con questa legge elettorale lei dice sì, però sono, cioè, capisce la differenza, sono persone comunque di un partito che il partito ha scelto per essere eletti in Parlamento, invece qui dice il professore sono persone esperti chiamati così, Giusi. Li hanno scelti i partiti, ma comunque sono stati comunque nominati da qualcuno. Se la differenza sta nel fatto di essere nominati piuttosto che eletti, tutti nominati, non è che chi conta chi li abbia nominati, sì, il partito va bene, ma chi è il partito che li nomina? Non è detto che perché vengano nominati dal partito siano assolutamente come dire idonei a svolgere il compito. No, ma è chiaro, lei ha voluto puntualizzare ecco su questa cosa della professor Borghi, che insomma abbiamo una legge elettorale così e lei va a fare le pulci sul fatto nominati eletti, no? Ma no, ma mi rendo conto, però è ovvio che sono nominati anche i parlamentari. Però alla fine il partito propone dei nomi e su questi prende dei voti. Se la gente non li vota perché non gli piace la lista delle persone che hanno, sì, messo assieme, poi dopo il partito va a zero e sta fuori dal Parlamento, come è stato il caso, non so, per esempio delle varie liste di Ingroia o cose di questo tipo che non hanno ricevuto sufficienti voti. Senta, mentre invece questi arrivano proprio dal cielo. Per cui in ogni caso, però, io veramente, giusto per riallacciarmi al mio terreno che è quello economico, non capisco dove sono tutte queste differenze sostanziali tremende, no, con cui il PD e il PDL non possono assolutamente prendere e governare assieme, perché tutto sommato fanno, e ci aggiungo ovviamente Scelta Civica, perché tutto sommato fanno parte di quello che io e altri chiamiamo sempre il partito unico dell'euro, cioè alla fine si dividono sul colore dello smalto delle unghie, ma poi dopo, quando si tratta di affrontare di petto il vero problema che ormai sta diventando sotto gli occhi di tutti, fino a 2 anni fa erano pochi pazzi che lo dicevano, adesso man mano che cadono tutti i paesi come birilli e che vengono fuori tutte le crepe come nel caso di Cipro, un po' più di gente sta cominciando a ragionarci sopra, quando si parla effettivamente del problema basilare e centrale di cui dovremmo trattare, vale a dire la permanenza dell'Italia nella moneta unica, non nell'Europa. Sono partiti veri dell'inciuccione, mettiamo tutti, così. Tutti, ma tutti, perché lei sarebbe per uscire dall'euro? Per lei dovremmo uscire dall'euro? Da economista? Ma assolutamente certo, sì. Dovremmo uscire dall'euro. Credo che anche Becchi, anche lei la pensa così. In questo caso è lei che entra, diciamo, in un campo economico. Secondo me dobbiamo uscire dall'euro. Io per l'appunto non ho la competenza che ha il professor Borghi, però da un punto di vista, diciamo così, politico e anche da un punto di vista così di difesa del nostro Stato nazionale, della nostra comunità nazionale, credo che effettivamente se non in immediata uscita dall'euro, quantomeno la minaccia dell'uscita dall'euro, che vuol dire? La minaccia minacciamo di uscire dall'euro. Cioè, per esempio, che cosa? Beh, noi non il fiscal compact che è stato approvato lo rinegoziamo, oppure diciamo semplicemente noi non stiamo più a queste condizioni che ci sono state imposte dalla cosiddetta troica, no? E quindi si comincia a minacciare e poi eventualmente si esce, oppure si pensano soluzioni come può essere un euro a due velocità, ma chiaramente differenziando le cose. No, le alternative sono tante. Una cosa è certa: l'euro, così come adesso, ci ha massacrato col governo Monti e anche precedentemente, ci continuerà a massacrare. Allora, quindi almeno bisogna fare la minaccia. Fermatevi un attimo, Claudio Borghi e Paolo Becchi. Voglio salutare l'onorevole Stefano D'Ambruoso, che ci ha raggiunto. Onorevole, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Di Scelta Civica, è uno dei tre questori della Camera, fa parte anche dell'ufficio di presidenza, quell'ufficio di presidenza dove si sono tagliati, credo ieri, 8,5 milioni, più o meno l'annuncio di tagliare 8,5 milioni. Intanto le chiedo questo, onorevole D'Ambruoso, glielo dico fuori dai denti, non è un po' pochino? Cioè il bilancio della Camera è 943 milioni di euro che il Tesoro ogni anno dà. Togliere 8 milioni che cos'è? Innanzitutto mi sembra una giusta attenzione sui soldi pubblici, per cui condivido con assoluta pienezza quello che è, insomma, l'opinione pubblica e anche i tecnici che si sono prestati a fare questi tagli stanno facendo sulla vicenda. Devo dirle che ho scoperto io, che vengo da tutt'altro mondo nella mia vita, non ho mai fatto la mia prima esperienza da appunto parlamentare. Viene dalla magistratura, ricordiamo, magistratura antiterrorismo. Esatto, quindi con grande attenzione sto verificando, con tutta la mia pregressa esperienza, sto cercando davvero di verificare quali sono gli eccessi che ci sono stati, se ci sono stati, e quindi sto cercando di distinguere, o comunque di provare a distinguere insieme ad altre persone, quelli che sono i privilegi rispetto a delle prerogative legate alle funzioni dei parlamentari. Ebbene, ho scoperto che nell'ultima legislatura, ancora appena terminata, nel 2012, sono stati fatti tagli per 150 milioni, quindi 50 milioni ad anno per i prossimi 3 anni. Per cui quella che noi abbiamo fatto ieri è un'aggiunta non prevista rispetto a questo piano di riduzione di 3 anni, che è davvero considerevole, perché si tratta di un intervento nell'ordine del, insomma, di circa il 20% in un anno soltanto rispetto a quello che era già stato previsto l'anno scorso. Quindi questi 8 milioni e mezzo si assommano a 50 milioni già stabiliti dalla precedente legislatura per i prossimi 3 anni, quindi i tagli saranno di 58 milioni all'anno in realtà, più o meno. Esatto, esattamente, ma soprattutto sono andati davvero a individuare delle voci doppie, o delle voci che davvero erano dei privilegi rispetto a quelle che invece devono essere delle spese considerate legate alle funzioni. Per esempio, era vero che il presidente di commissione ha un'indennità aggiuntiva in quanto presidente di commissione, non solo lo stipendio da parlamentare, ma un'indennità in più. Questa cosa l'avete tolta, per esempio? È stata ridotta quasi fino ad azzerarla, si trattava comunque di cifre che devono essere conosciute, e infatti questo è l'impegno massimo che io personalmente e le altre persone dell'ufficio di presidenza, a partire dalla presidente Boldrini, stiamo facendo. Stiamo individuando davvero quelle voci che non possono più trovare spazio in un periodo non solo storico, ma in un periodo anche economicamente caratterizzato come questo. Per esempio, me ne dica una, cioè una che proprio l'ha fatta sobbalzare sulla sedia quando l'ha vista, se ne ha già vista una. Ma guardi, la cosa proprio più evidente è stato che io per primo ho chiesto per me stesso la rinuncia all'uso di un appartamento che era nella disponibilità, legato alla funzione dell'appartenente alla presidenza all'ufficio di presidenza. Cioè, quanti quindi siete l'ufficio di presidenza? In tutto siamo 7. In 7 c'era un appartamento a disposizione dei membri dell'ufficio di presidenza. Eh, che devo dirle anche per completezza, che storicamente aveva un senso, perché appunto era legata alla vicinanza necessaria che ci doveva essere rispetto al luogo di lavoro per persone che venivano da parti lontane d'Italia. Oggi in questo contesto storico insomma si poteva tranquillamente farne a meno, e quindi insieme alla Presidente Boldrini, io che sono in questore anziano, ho chiesto di rinunziare, e così abbiamo fatto. Senta, onorevole D'Ambrosio, le chiedo questo: uno dei punti sul quale anche la Presidente Boldrini ha posto l'accento fin dal primo giorno è con l'accordo dei sindacati, e sono ben 9 sigle sindacali, si tratterà anche di ridurre la questione dei privilegi, lo dico io, privilegi dei dipendenti della Camera, 1540 e rotti. È vero per esempio che hanno 15 mensilità, una cosa che non si vede neanche su Plutone. Sì, è vero, hanno 15 mensilità, va anche qui trovata la giusta misura, non per ridurre insomma il disappunto generalizzato quando si sentono questo tipo di notizie. Va detto che io ho scoperto che si tratta di, ho lavorato in varie parti delle pubbliche amministrazioni, ho scoperto che si tratta di personale davvero preparato e professionale, senza del quale questa macchina non funziona. Ma questo non ci mette in dubbio, le persone però, che hanno passato concorsi. Però se c'è da individuare, se ci sarà da individuare con la guida della Presidente Boldrini delle rivisitazioni dei salari, dei stipendi, evidentemente che anche questo è un obiettivo. Va detto in tutta franchezza che noi siamo in un paese di diritti e ci sono ben sindacati pronti a tutelare fino allo stremo che questi diritti già acquisiti. Questo va detto in tutta franchezza. Cioè, va detto, nel senso, lei vede una troppo già linea di intransigenza da parte delle sigle sindacali? Ciascuno fa il proprio ruolo, esattamente, per cui sicuramente sarà un segmento un po' più difficile rispetto a questo, che in ampia invece discrezionalità e con la condivisione anche di tutte le parti presenti al tavolo siamo riusciti a fare soltanto in una settimana con appunto l'ufficio di Presidente. Tanto ancora ci sarà molto da fare. Intanto io la ringrazio, onorevole Stefano D'Ambrosio, per essere stato con noi di Scelta Civica, lo ricordo. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo l'ultima parte sempre con Paolo Becchi, con Claudio Borghi, gli ascoltatori, tra pochissimo. Eccoci allora, due ascoltatori, Victor da Trapani, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e a lei. Dica. Dunque, la questione secondo me è gravissima ed è sotto gli occhi di tutti, nessuno lo può mettere in discussione, ma le proposte attorno alle quali i gruppi parlamentari dovrebbero trovare un'intesa, considerato che partiamo da posizioni assolutamente distanti su problemi di principi, sul PDL che ha una sua visione del mondo e dell'economia, sul PD che fa finta di averne un'altra, ma che in effetti ovviamente non credo che sia molto diverso da quella del PDL. L'Italia sta morendo asfissiata dalle tasse. Io sono un commercialista, vivo il mondo delle imprese perché appunto come professione faccio e mi occupo di quello. Per pagare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, qual è stata la soluzione che sembra essere quella più probabile? Quella di aumentare l'addizionale. In realtà, Victor, lei dice sembra essere più probabile. Ieri il ministro dell'economia l'ha smentito. Poi oggi vedremo in Consiglio dei Ministri. Vedremo, perché sa le sorprese. Lei, come dire, da italiano si è abituato che le sorprese rischiano di entrare. Noi come italiani siamo abituati ormai a essere tartassati dalle tasse. Anche perché, siccome si porta avanti, si porta avanti. La coperta è corta, dottore, quindi da qualche parte questi soldi devono uscire. Allora, però questo Vittor lo vedremo, nel senso, tra l'altro ripeto, alle 9 Simone Spezza ne parlerà, ci sarà anche il sottosegretario all'economia. È vero che una delle ipotesi per trovare i soldi per pagare le imprese, che lo Stato deve dare alle imprese, è permettere alle regioni di anticipare dal 2015 al 2013 l'aumento dell'addizionale IRPEF, cioè tradotto, per dare i soldi ad alcuni cittadini mettiamo più tasse ai cittadini. Edmondo D'Arieti, buongiorno. Buongiorno, salve. No, volevo semplicemente dire, a parte questo fatto che quando si tratta di tagliare si tagliano sempre le briciole e quando invece si tratta di prendere sono miliardi, vabbè. Comunque, diamo fiducia, diciamo, iniziamo con uno spirito di fiducia, speriamo che inizino da qui. Sì, tanto i costi della politica sono gli errori che fanno giornalmente, non sono certo i loro stipendi che comunque non se li meritano. Lasciando da parte questo, c'è il discorso che qui si è fatta una compagna politica con Bersani che chiaramente prima nelle primarie e dopo durante la campagna elettorale si è detto autosufficiente e ovviamente in opposizione al PDL, non al Movimento 5 Stelle, i quali hanno detto che non vogliono assolutamente fare alleanze con nessuno. Adesso quindi... Bersani dovrebbe semplicemente fare un passo indietro e dire ok, ho sbagliato, e quindi si nomina qualcun altro nel PD che non abbia, possa avere la faccia di fatto. Ma guardi che non è neanche escluso, non è neanche escluso Edmondo che lo faccia, perché ieri Bersani ha detto se il problema sono io ditemelo, però non ho sentito nessuno, ma ditemelo. Comunque Borghi e Becchi, Becchi, Movimento 5 Stelle, lei che ne è così vicino, è vero? Si può dire, sì. Ma, vicino sì, nel senso che sono un simpatizzante e ho cercato di difendere il movimento. Ma non ha fatto una grave mancanza a perdere l'attimo, a perdere l'abbrivio? Ma io direi no per la semplice ragione che diciamo questo movimento è rimasto fedele al suo impegno preso in campagna elettorale con gli elettori. Cioè chiedere ora qualcosa che è stato ribadito in tutte le piazze d'Italia con lo tsunami tour, no? di Beppe Grillo, cioè andate a casa tutti e dire no, adesso ci mettiamo con una determinata parte che abbiamo criticato e dalla quale siamo stati duramente criticati, mi sembrerebbe un tradimento nei confronti anzitutto di coloro che hanno eletto. Quindi c'è linea dura e pura, linea dura e pura, senza paura. Io direi così, che come elettore, come semplice elettore del Movimento 5 Stelle, al momento io non sono altro che un elettore del Movimento 5 Stelle, che li ho votati, magari con i miei iscritti ho anche contribuito magari a far prendere qualche voto in più, può essere, non lo so, e io sono per questa linea intransigente di coerenza, può anche darsi che sia politicamente perdente, non lo so. Però lei dice questa linea dura. Vorrei chiedere invece questa a Borghi, perché siamo quasi in conclusione. Borghi, senta, ha sentito anche D'Ambruoso, ecco, raccontare di 9 sigle sindacali alla Camera, di quindicesime, e per carità è uno spaccato, sono 1540 dipendenti della pubblica amministrazione, non è che sono uno spaccato d'Italia grandissimo. Quanto è distante dall'Italia questo mondo con D'Ambruoso che dice i sindacati già li vedo, ognuno fa il proprio lavoro, no? si sentiva, no, Borghi, non che lo voleva dire sti sindacati che le resistenze, quanto fa parte, quanto è lontano dal paese reale questo spaccato d'Italia? Miran, guardi, veramente non ce la faccio io a entusiasmarmi per queste cose, non ce la faccio perché le abbiamo sempre avuti, finché le cose andavano queste cose non erano poi questo problema così insormontabile, anche se erano pure peggio di quelle che sono adesso, e in ogni caso non sono certo le cose che hanno poi dopo contribuito a portarci in questa situazione. Non so se ci rendiamo conto, in Europa in questo momento ci hanno dichiarato guerra, perché nel momento stesso in cui il presidente dell'Eurogruppo, l'olandese Dijsselbloem, dice che le banche devono, come procedura, diciamo la cosa cipriota, devono poi portare nel loro fallimento anche i depositanti, e quindi sta dicendo che le banche non sono tutte uguali, che ci sono delle banche periferiche, un po' italiane, un pochettino stortignacole, che sono più pericolose, invece delle banche centrali, meravigliose, pure ariane, come quelle oltretutto nazionalizzate, perché poi saluti alla concorrenza, olandesi o tedesche, sta semplicemente creando lo spread che si è creato sui titoli di Stato artificialmente con la Grecia, anche per le banche. Questa è la vera guerra, detta da uno che alleva maiali, l'altro, e a quel punto lì cosa succede? Che se noi creiamo uno spread strutturale per le banche, significa che le banche stesse non riescono a trovare i soldi, automaticamente le imprese non possono trovarle, e poi dobbiamo parlare di competitività, di concorrenza, ma come potremmo competere nel momento stesso in cui una nostra impresa dovrà finanziarsi al 6% mentre invece una tedesca con tutti già i vantaggi che ha si dovrà finanziare al 2%? Cioè, questa è la vera battaglia. In Europa che prendesse per la collottola questo soggetto gli si dicesse col cavolo, mentre invece il nostro rappresentante del loro gruppo, il ministro Grilli, così diciamo i nomi, io ho visto semplicemente delle gran pacche sulle spalle e poi fanno i decreti, poi fanno le cose, la prorogazione, ma doveva mettersi sdraiato per terra fare questa cosa? Battaglia. Ma guardi, sulla questione dell'euro la reinviterò, questa è una promessa, dopo che tornerò dalle ferie, domani è il mio ultimo giorno, poi vado in ferie 10 giorni e tanto torno e sarà tutto come prima. Ci sentiamo domani alle 6:30. Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene e l'ultimo chiuda la porta. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.